Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Lunedì abbiamo parlato del MUST, il Museo del Territorio di Vimercate, paese della Brianza con 26.000 anime, che ha vinto il premio come migliore allestimento italiano dell'anno in campo museale. Di Vimercate avevamo già parlato qualche mese fa con riferimento a Spazio Città, uno sportello unico comunale, quattro vetrine in centro con orario di apertura d'esercizio commerciale, quindi orario esteso, dove ogni impiegato comunale è esperto di tutti i settori, dall'anagrafe al fisco al catasto. Niente più code e ogni tanto persino un mazzo di fiori da parte di qualche cittadino particolarmente grato. Insomma, mentre ancora abbiamo sotto gli occhi le immagini della festa in maschera con tanto di ancelle e satrapi organizzate a spese dei contribuenti della regione Lazio, ci sono realtà locali che gli sprechi sanno tagliarli e che sono state in grado di mettere in piedi una struttura burocratica più efficiente, con soddisfazione anche di chi nella pubblica amministrazione ci lavora. Insomma, una spending review dal basso. E allora oggi torniamo a Vimercate per farci spiegare come si fa a fare tutto questo. Ne parliamo con Ciro Maddaluno, segretario generale del comune di Vimercate, punto di snodo, anche elemento di continuità questa trasformazione che è avvenuta progressivamente negli ultimi 10 anni in questo comune della Brianza. Buonasera Maddaluno. Buonasera. Allora Maddaluno, voi avete fatto veramente una miriade di cose, adesso un po' le racconteremo anche, ma la domanda vera è: com'è che non si riescono a fare in tutti gli altri comuni delle misure di razionalizzazione che per esempio avvengono in ogni azienda normale? Ma io mi sono convinto che probabilmente la causa di questo è che forse non vi è molto management diffuso, molto è lasciato alla disponibilità e alla buona volontà di qualcuno, contrariamente a quando avviene in altri settori della vita. Penso a quello dell'impresa, laddove i fattori della produzione sono organizzati e sono ottimizzati in ragione di quello che bisogna raggiungere. Invece come avete motivato i dipendenti? Perché un'altra immagine ricorrente è quella del dipendente pubblico che non accetta nessun cambiamento, dice no a tutto. Ma noi gli abbiamo detto invece che cosa avremmo voluto fare, quali erano i nostri obiettivi, gli abbiamo spiegato che loro, alla fine di questo percorso, sarebbero state le persone più in vista del Comune di Vimercate, quelli che avrebbero speso insieme immagine e sostanza dell'amministrazione comunale di Vimercate, sarebbero stati quelli che sarebbero diventati maggiormente professionalizzati e che avrebbero tratto anche la maggiore soddisfazione personale, sarebbero cresciute anche come persone, insomma, e questo abbiamo fatto alla fine. Ecco, e quindi non avete trovato resistenze, anche se qualcuno ha dovuto magari cambiare orario di lavoro, ha dovuto studiare, ha dovuto lavorare di più. Certo, abbiamo dovuto spiegare bene, perché il cambiamento è noto, alimenta qualche paura, questo umanamente va compreso, ma alla fine se è ben chiaro il risultato che si vuole raggiungere, anche in termini, ripeto, di gratificazione del singolo operatore, beh, questo diventa più incoraggiante e poi i risultati, i successi, potrei anche dire, che vengono raggiunti lungo il percorso sono autoalimentano la motivazione delle persone che trovano più energie per andare avanti. Ecco, ricordiamo che il personale del comune di Vimercate negli anni è passato da 210 a 170 dipendenti e questo aumentando i servizi, per esempio l'orario di apertura degli uffici pubblici. Dunque, oltre a questa dimensione comunale, c'è anche una dimensione sovracomunale che quindi coinvolge tutta una serie di comuni intorno a Vimercate, diciamo di quell'area, che è un altro buon esempio di come si possono fare le cose per ridurre i costi, per esempio, di gestione. Sì, questo il Vimercatese è un territorio di buona amministrazione che dura da decenni, per la verità. Su questo territorio è nato il sistema bibliotecario che poi è diventato regionale e poi nazionale. Qui a Vimercate è nata Offerta Sociale, è nata questa azienda speciale consortile che gestisce i servizi sociali per circa una quarantina di comuni e questo dura da molto più di un decennio. Abbiamo poi con il circondario del Vimercatese sperimentato l'ufficio acquisti associati, abbiamo sperimentato anche il progetto per la formazione associato per i 39 comuni del circondario e abbiamo fatto poi anche il progetto per l'offerta tecnica, lo sportello tecnico associato. E poi non va dimenticato un altro importantissimo servizio per i cittadini che è il catasto. A Vimercate esiste ormai già da alcuni anni il polo catastale che è un polo che gestisce il servizio catastale per decine di comuni, che trovano qui immediatezza di risposta e anche risposte più economiche, insomma molto più accessibili. Ecco, insomma, uffici, acquisti, formazione, vuol dire che voi diciamo giocate sull'economia di scala, anziché comprare per un comune, comprate per 40 comuni, sì. E il risultato naturalmente è che avete dei servizi e dei costi più bassi. Però questo vuol dire cedere sovranità, diciamo così, nel momento in cui si fa una roba del genere ci si domanda cosa lì si elegge a fare gli altri 39 sindaci. Sì. Sì, però sì, è vero, ma qui l'esperienza era partita. Naturalmente si tratta di ridargli linfa, perché spiegare che i comuni in questo modo, da un lato, non avrebbero perso la propria identità, la propria storia, dall'altro lato non avrebbero dato vita a un ulteriore soggetto, che è un altro soggetto che, come dire, drena risorse, perché il circondario utilizzava le intelligenze, le professionalità già presenti nei comuni che davano vita al circondario. Non ci sono gettoni, per esempio. Assolutamente, non ci sono gettoni. Questo circondario è un'entità che costa zero. Costa zero, diciamo. Perché non c'era indennità né per gli amministratori comunali e non c'erano neanche indennità aggiunte per le persone che vi lavoravano come operatori. Senta, domanda, da un punto di vista così tecnologico, degli investimenti, diciamo mettere in piedi questo tipo di realtà è costoso, richiede l'utilizzo di chissà quale livello spinto di conoscenza dell'informatica, per esempio da parte degli operatori, o è qualcosa che in fondo insomma è a portata? Guardi, noi per Spazio Città, quando abbiamo aperto la nuova sede, abbiamo portato nella nuova sede le postazioni che avevano gli operatori precedentemente. Inclusi i computer vecchi, diciamo. Sì, non abbiamo dovuto neanche, come dire, acquistare degli applicativi, dei software nuovi, perché abbiamo utilizzato quelli che c'erano. Grazie Ciro Maddaluno. Prego. È tutto, a domani.